ricordare, a ricordare te. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile, un anno senza te. Trova pranzo a squarciarelli e tuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che...